Sì, Enrico, un segnale di 3 modulati oscillante a 4, la radio è 2, ti ascolto bassissimo, però è comprensibile. Ecco, tu lo ascolti. Adesso 1, 2, 3, 4, 5. Adesso sì, prima no. Ah, ma sei tu, Fra, ma è sempre uguale. No, Fra, adesso sei tu. Adesso sei 7, quasi 8. Sono andato una bassa comunque, dai, una ballata. Stavo provando questo apparecchio in macchina dove ci stavo andando. Cappa, non ti avevo riconosciuto poco fa perché eri basso, molto basso, non ti capivo. Avanti, Gianni. E che zona è, Franco? Sono nella zona di Bancari Basso, però nella ballata, non so se mi ascolti tu. Sì, basso, ma ti ascolto. Cappa, ok, dai. Sono qua a Bancari Basso, ho passato la chiesa lì, proprio dove hai campagna, dai, si può dire. No, se pensi, perché per me quella zona è tutta negativa, diciamo, la mia antenna non ti vede, dai. Quindi, ottimo, ti arrivi bene qua, dai. Ok, dai, ti ringrazio del controllo. Contraccambio, tu sei 9, per Radio 5, e ascolto bene anche gli altri amici, non so chi altro ci sia. Sì, capa, c'è Natalino, Gianni, Luca, Giovanni e Franco da Sorso. Vediamo un po' se è rientrato Gianni. Negativo, Luca. Sì, sono qua io, sempre qua. Lo sento pure io a Giovanni. Giovanni, mi ascolti? Aspetta. Lo sento basso, guarda. Forse stava parlando però. Luca, a me mi senti? Mi ascolti? Santiago, sì, è Radio 5, Luca, qua, a Bancari Bassa, zona campagna. Ok, da Santiago 7, Radio 5, ho capito. Io ho un disturbo del condizionatore, lo sai, Fra. Anch'io qua quando attaccano. Io ce l'avevo ieri e avanti ieri, mi sembra, questo segnale è proprio fisso, anche se non sale più di uno, però i segnali bassi non li sento, non li sento. Quello che sta parlando adesso è Franco però, non è Giovanni. Franco Bancari, mi senti? Papa, ciao Franco, ci ti ascolto, 7-8 sì qua. Ma c'è il movimento? No, negativo, sono fermo con la macchina. Perché c'hai lo smitter e sciglia. Scino ogni tanto, probabilmente è come col CD, Sai? Cappa, no, lo sto aiutando con l'applicatore d'accento, capito? Ah, cappa, sì. Arrivi bene qua comunque, arrivi 7 a Radio 5. Mi ascolto? Sì. Va bene, dai. Luca, non so se mi ascolta. Luca? Oh? Ti ha rilanciato, ti ha chiesto se lo ascolti, Franco. Un momentino, c'è un altro disturbo, te l'ho detto. Prima lo sentivo. Capito, Fra? Saluto tutti cordialmente, grazie dal controllo, contro cambiato tutto al 100%, la parte io ci ripensiamo più tardi. Se coincido quando arriva la stazione fissa, ciao! Noi capa, siamo qua. Avanti, Fra, rilancia pure gli amici, che quelli che noi non sentiamo. Ciao Franco, buon rientro, buon tutto, dai, ci sentiamo alla prossima. Cappa, Natalino. Oia, dimmi. Vai a Franco, non lo senti? A California. No, non lo sento. Lo sai, quelli bassi non li sento, c'è QRM qua. Ecco, vabbè. Riprendi Luca. Ehi. Comunque a momenti, dai, a momenti lo sento, a momenti no. Ok, ma Claudio non c'è, Claudio ci sei. Claudio non c'è, che è Franco California e l'altro? Sì, quello che è entrato, sì, California, Franco, era Bancali. Oh, Franco, mi ascolti? Qua te la chiudo. Sì, adesso senti, Santiago, sì, Radio 5. Ho capito, andava. Andà bene, comunque è un casino oggi, ieri non c'avevo QRM, niente, zero, oggi c'è freddo, ci hanno attaccato il condizionatore e mi sta facendo disturbo, perché dico, è una padina a LED e portano questo disturbo, ma non è vero perché l'ho spenta ed non cambia niente. Anche i trasformatori, quelli per luci a LED già disturbano, Io a volte quando passo in certi negozi, a fianco ai negozi, tipo l'altro giorno, il mese scorso, cazzo, non sentivo nulla, ma QRM a 6-7 quando passavi davanti alle vetrine dove c'erano queste luci accese, porca miseria. Vediamo se è entrato, doppio room, c'è anche Gianni, il profeta. Ma comandi, l'Alzheimer è galoppante già. Anche l'Alzheimer, crocro. mamma mia come sto. Sì, Franco arrivava a 5-6 qua, dai. Giovanni proprio, oggi proprio non lo sento per niente. È riferito a Franco Insorso e la strada girare lo Smith riguardava Natalino, sicuramente non a temi. Sì, l'ho capito quello, non è un problema, Gianni. Poi io mi domando una cosa, mi domando, che tipo di profeta sei che non ci fai neanche un miracolo? Vabbè, adesso meglio mi ascolti. No, beh. No, Franco Insorso, tu non fai il testo, sto andando col capo. No, beh, è quasi 8, va. 8? Va bene, allora, 8 un po' la truppa. Tu no, mi ascoltate tutti bene, allora. Adesso sono con la Smart Tech, però farò con la mappa, fra. Oh, cazzo, adesso c'hai... Cioè, pensa come siamo messi noi, quindi ottimo segnale. Questo è uno scherzo d'antenna. La radio già è a posto, è la mia. Ok, ciao Giorgio Profetta, buonasera a tutti, sono qua. Ciao Claudio, buonasera. Oh, yeah. Cos'è che volevo dire? Volevo rispondere a Franco Insorso, adesso non mi viene... Vabbè, quando mi viene in mente già te lo dico, fra. Ma con che antenna sei in pieno adesso? Perché mi sta venendo due? Ok. Tu? Ah no, vabbè, ho collegato la veicolare all'Uranus, capito? Ho visto l'altro giorno che c'erano due antenne, tu? Oh già, naturalmente stiamo scherzando. No, ci mancherebbe altro, fra, già l'ho capito. Scusate un attimino che mi chiamano. No, più room. Boh, dove è andato questo qua? Boh, entra, esce. Allora, fra. Ehi, provo a essere lontanato. Va bene, noi siamo Giovanni. Giovanni, io faccio un bel discorso. È morto Gianni, becco. Agita, Grizia, che stanno modulando. Ehi, ciao Giovanni. Sono corretti per tutto, ce lo ascoltiamo le prossime. Avanti Franco Sassari. Sì, sì, ciao, lo saluto anch'io. Mi dispiace di non averlo sentito. Un abbraccio anche da parte mia, alle prossime. C'è stato un break, avanti. Buonasera, come sta scendendo in radio? Per me è bene. Ok, dai, per adesso riesco al microfono, non so perché. No, adesso no, sta andando bene. Natali, lo ascolti? A chi? Natalino, mi senti? Sì che ti sento, Cristian. Ho chiamato una l'antenna sul tetto, ho usato la frusta nera oggi. Ehi, vabbè, già ti sento. Ma sì, no, ma già ti sento. Sulla pedaliera, secondo te? Anche secondo me arrivi, non c'è problema. Con la speranza che tu mi ascolti, già arrivi bene. No, a te non ti ascolto mai. Ti sta spaccando lo smitter. Ecco, sì, Santiago 7, Radio 5, la già va bene con l'antenna che hai messo. No, perché la LEM sta avendo problemi, adesso non so, frusta nera e niente di che. Ma già va bene, sì, portiamo con la truppa, non c'è problema. Avanti, Rublofè. Ehi, vai Giovanni, no? Ripeto, stasera proprio non riuscivo a tirarlo fuori. Sentivo che si alzava il rumore di fondo, ma non assolutamente in nulla da queste parti. Gioia. Avanti Franco di Sierra, dai. Sì, sì, anche per me. La stessa cosa, sentivo che sotto stava parlando, ma non passava il QRM, purtroppo, dai. Avanti Franco. Capo. No, io già l'ascolto bene perché ce l'ho vicino, ciao, qua nella marina, figurati. Tutta questa cosa la copro bene. Capo, beh a tutte, dai. Luca. Finocchi. Mi sto leggendo un po' Facebook, comincio a caricare il telefono. Si può questo un sardi. Comunque secondo me non sono buoni quei tester per fare il tampone, là. Quelli casalinghi diciamo. Ma in teoria dovrebbe essere gli stessi che ti fanno loro, quelli in farmacia, in teoria, poi boh, non lo so, sono quelli, questo non lo so. Ma lui è fatti quello molecolare, ti chiameranno prima o poi, là. Molecolare sarebbe? È quello che ti fanno l'ASL. Ma che c'è quella alla gola, quello lì è? No, no, sempre dal naso. Ah, boh. Che differenza c'è da questi che fanno qua a qui? Cioè, questi, quello che ho fatto io lo stesso ho fatto al naso. Qui là hanno dei reagenti diversi, sono più affidabili, capito? Questi sono quelli tipo per vedere se sei incinta. Davvero, boh, secondo me non sono affidabili comunque, vabbè. Vai a Cuccia, vattene. Cosa vuoi? Vattene a Cuccia, ma dalla via, fra. E si conferma, quelle formazioni sono, quelli che compri formazioni sono affidabili. Se ne sentono parecchi stati positivi, oppure fatti negativi, che è ancora peggio. Perché io faccio una mese, devo fare, faccio le lezioni in campo da tennis, le faccio una mese, faccio la protezione civile. Non so. No, io ho fatto quello molecolare, e quello dovrebbe essere affidabile, dai. Molto cosa fa? No, non paghi niente. La farmacia l'ho pagato 15, quello della farmacia. Però me l'ho fatto io a conto mio, no? Lì invece l'ho fatto dall'altro, non ho pagato niente. In macchina l'abbiamo fatto tutti e tre. Abbassi il finestrino, una sfarrugiata al naso e via. Tutti e stop fatto. Vabbè, tu l'hai fatto per lavoro, giusto? No, proprio l'ho fatto perché prima ero in quarantena, poi mi ha contagiato e quindi alla fine ho dovuto fare anch'io il tampone. Sono venuti loro? No, in macchina sono andato, in macchina è lì a Resedu, ti danno l'appuntamento, loro stessi, vai in macchina, o Resedu invece il primo mio figlio l'ha fatto a San Camillo e invece il secondo l'ha fatto insieme a noi, lì a Resedu, tutti e tre. Sì, ma ti telefonano loro, dico. Sì, ti chiamano loro, ti danno l'appuntamento, il giorno, ti dicono, e l'orario anche. A me è arrivato solo il messaggio, poi sai, te l'avevo detto, se non erro, c'è scritto perché sono positivo, ne aspetta allora. Ecco qua, SS, igiene pubblica, positività, post test, ma positività, test antigenico, disponiamo autoisolamento, informare il suo medico se sintomi importanti, vaccino autosintomatico. Lo so, però quello forse la farmacia non trasmette come l'altro, capito? Invece una volta che noi ci siamo autodenunciati, praticamente i nostri numeri ce li aveva l'altro, quindi ti chiama. Se poi uno ci fa un tampone in farmacia così, non fai altre denunce, magari non ti chiamano, capito? Ma per forza, se sei positivo subito ti chiama e ti blocca direttamente. Vabbè, qua dice se è vaccinato, asintomatico, test antigenico dopo 10 giorni. 7 giorni se terza dose, se possibile verrà chiamato per tampone molecolare, informare contatti stretti. E allora è quello, se è possibile ti chiamano, quindi probabile che ti chiameranno, dai. Quando? Perché io non vedo l'appuntamento dove fare il tampone, farmacia, grazie a Giulia Papulidina. Opra, dimmi. Ma quando fai la terza dose ti chiamano a fare anche un tampone? No, ho capito, quando fai la terza dose? Ho capito male o è come ha detto Luca? Quando fai la terza dose poi ti chiamano a fare il tampone? No, se hai la terza dose devi fare il controllo dopo 7 giorni se ti trovano positivo. Se invece non hai la terza dose, dopo 10 giorni devi andare, perché sicuramente hai una guarigione più lunga. Capo, no, perché ieri l'ho fatta io la terza dose. Mi è arrivato anche il coso per il Green Pass. Tranquillo. Insomma, un po' dolori, mal di testa, ma adesso mi sta passando. Ma ieri sera, tutta la notte. Moderna? Sì. Anche a me mi ha fatto un po' di problemi. Vediamo un po', ci è rimasto, Natalino ci sei? Io ho fatto Mi è rientrato Gianni, non vedi già? Stavo al bagno, là. Sono a parto, dai, capito. Riprendita, dai. Capo, ha detto io ho fatto Pfizer e mi ha dato dolori al braccio per 2 giorni e poi già mi è passata. Sì, già, anche io ho dolori al braccio, dove mi ha fatto la puntura. Però del resto adesso mi sta passando tutto, mi sta passando. Ma il braccio mi fa male lo stesso, però mal di ossa, mal di testa, queste cose qua mi viene passata. Ehi, vabbè, piano piano già passa, forse è l'effetto che fa. Quando lo fai c'è uno che fa male, all'altro no. Però a me la gancara la prima volta, secondo il vaccino, mi ha gancara due braccio che ho dovuto prendere i lucchi dai dolori che avevo. No, a me i primi due vaccini non mi hanno fatto niente proprio. Qualche dolorino appena appena nel braccio e basta. Però il resto niente. Questa sì che mi ha fatto di più. quando entra ti si lacera il muscolo, quindi è normale che faccia, che ti faccia male, capito? Ma io non l'ho neanche sentito, gli ho detto anche, ma ha finito, dice perché non se ne è accorto, ha detto no. No, beh, quando lo pugni non lo senti, è dopo, è a caldo non lo senti, no, è dopo quando inizia a bruciare un po'. Capo, beh, adesso oggi mi è arrivato un messaggio, adesso domani vado in farmacia e faccio scaricare il rimpasso. E invece io adesso la testa non la devo fare perché ho passato il Covid, capito, e quindi ormai devo stare fino a luglio, mi sembra, senza fare vaccini. Capo, e allora va bene. Vabbè, sono fatto di fare una tessera, poi ti farò fare la quarta. Farò direttamente la quarta, io la terza non è entrata bene, ha saltato la marcia. Avanti Gianni, Lubrofetta. Lubrofetta. Lubrofetta è fendi Lubrofessore. E me Gianni, ho più Lu. Ehi, da. Qua sono, fra poco, ma devo andare che stanotte sono in tournée. In ribotta, sì. Mi ha dato che tu ci mi tre freghi, già. Io ritornei nel tentavoletto. Chi è che ha parlato sotto? Coletta Gianni, rimani a casa che è meglio. Rimango a casa. Sapete, io ho tre vaccini. Mi porto la mascherina e sono a posto. Tanto la gente che entra deve avere tutto il green pass, se no non rimane entrare. C'è la gente con green pass che sono positivi, non lo sanno nemmeno. Non abbassare la guardia. Quella è una cosa pericolosa. Poi quei rimpacci adesso, i vecchi, ti danno il nuovo e il vecchio è sempre attivo, non ho capito perché. Ah, è una cazzata il tuo rimpacci, boh. E sono proprio così che contagiano, ci sono quelli che vanno con il green pass falso e magari sono positivi e crebano a tutti, capito? È per quello che bisogna stare a casa, non avete compreso ancora? Ti chiedo scusa. Sì, va bene, dai, io mi allontano e devo fare cosa. Ci sentiamo. Ciao Franco, ciao Gianni, ciao anche Gianni Profetta, e Claudio se c'è. Poi che c'è rimasto Natalino e basta. Ci sentiamo. Riprendi Franco e poi fai girare. Ciao Fra, un abbraccio da parte mia, alle prossime. Vediamo se c'è Claudio. Sì, io sono Franco, poi ci abbiamo parlato in due, ho detto sono Franco, cordialità e saluti, che sono uscito un attimo fuori a far uscire a Filippo. Ciao, sono qua, avanti a chi tocca. Allora lo risaluto io, ciao Franco, alle prossime. Avanti Gianni. Ciao, ci sentiamo, dai, ben sentito. Ciao Franco, alla prossima. Ciao Franco, alla prossima. Ciao Franco, ciao a tutti. Ciao, via, anche a Franco California c'era. Era in QRX, mi sembra, boh. Ci sei Franco California? No, non c'è. Vediamo un po' chi ci è rimasto. Luca, Lubrofetta. Sta pregando ancora, boh. Mica lo cancello dalla lista adesso. Io vado a fare una passeggiata, Lubrofetta. Dove vai di bello già stasera? A mangiare la pizza. Va bene. Lo mangiare la pizza buona, hai già... come si dice? È già prenotato? Comunque la sera è buona anche, noi l'abbiamo mangiata. Come si chiama la via, mannaggia, che c'era il Conad. La via che sale invece la chiesa di San Giuseppe, mi pare, sì. Che via è quella? Qui a Struni, bravo. E la pizzeria si chiama il gatto dell'Uva, mi pare, la volpe dell'Uva, una cosa del genere. Ah, veramente è buona quella pizza. Gianni, ma come funziona adesso? Praticamente prenoti, perché da lunedì siamo in arancione, quindi adesso prenoti. Adesso prenoti e poi quando arrivi lì devi presentare il green pass prima di entrare. Sapere quella è una cosa normale, si mappavano a 4, non più di 4. 4, noi siamo in 4. Siamo in 4. Vabbè, andiamo domani, però siamo in 8. Adesso vediamo cosa succede. Vabbè. Due tavole devi fare. Cristian! Ehi, ama Kumari, Ma ci sono io che ti penso. Come due tavole, fra? Che cosa c'è? Mi ha detto una parte e l'altra. Due tavoli vicini, dai, a un metro praticamente. Se non puoi, non puoi. fra i coglioni, cioè, per carità, guarda. Ma se, se siamo tutti assieme, va bene, siamo pronti, non me la fotti più nulla, tanto. Tanto peggio di così non si può, da lunedì comunque siamo in arancione, preparatevi. Io la regola non lo so, se poi se sei un nucleo familiare se ti fanno mangiare assieme, quello non lo so, poi dipende sempre da loro se la rischiano. Rilancio ancora Cristian. Ma se la lancio io già non ho problemi, possono uscire di casa. Oh, io passo anche col rosso. Sono uscito col rosso, col verde, quello che dà, riesco sempre, ormai. C'era con te i vigili, ma aspetta, aspetta, la Roma di Claudio, ne vedi di taccuini pieni, 300 vigili ci sono solo per questi controlli. Se ne hai iniziato a controllare i delinquenti, invece controlla a noi. No, è così che funziona. Noi dobbiamo uscire da questa storia, no, non si può andare avanti. C'è un po' di gente fasulla, capito? Prima si faccia, gente dice vaccinata, non è vaccinata, certificazioni fasulle, è un casino, fra, è un casino. Quindi è giusto che facciano i controlli e che veramente ci sia una svolta a questa storia, perché altrimenti non usciamo più. Cioè, ma come si fa? Andare a mangiare la pizza in famiglia, 4 in un tavolo e 4 in un altro, ma di cosa si muove i denti? Aiuto, per favore, lasciamo perdere. Va bene ragazzi, io mi ritiro per deliberare, ma ne passo ai fornelli che c'ho gente stasera e... Ma ne passo ai fornelli, ciao Gianni, ciao a tutti, buon divertimento, eccetera, eccetera. Saluto circolare a tutti, ci sentiamo dopo. Sono qua in ascolto comunque. Ciao caro, un abbraccio a tutti in casa. Dai, avanti Natalino, ci sei. Capa, là, vi saluto che io devo fare cosa purtroppo. Ci sentiamo alle prossime, dai, quelli per me. Salutoni a tutti. Che ci è rimasto? Luca, ci sei. Signor Gazzino, ci siamo vedendo uno sopra l'altro, cazzo, signor Gazzino. Con chi ho parlato? O ti parli con Claudio, o ti parli con Gianni, o ti parli con... Cazzo, un Gazzino. Sono troppo mano veloce questi ragazzi, buh. Tu scisci mano veloce. Ah, io già aspetto un po' prima di schiacciare. Io lo stesso, non è che sono molto veloce, c'è anche Natalino, non so qua in ascolto comunque, già riprendo, io adesso me ne devo lontanare, cosa metto dopo come fornelli, dai, ci sentiamo dopo. A che ora è? Riesci a vedere? Siete con cuova, nega. 7:10 subito. Eia, 7:10, fra 7:10. No, Lucio, c'ho gente, là, c'ho... gente da fuori e quindi devo lottare che vengono alle 8 e sto preparando un aperitivo, ci sentiamo dopo. Ehi, tranquillo, va. Io sto ancora qua, poi vediamo un po' cosa organizza per stanotte a mangiare, Vediamo, sono frutta, io non fa male, dai, ieri mi ho mangiato la pizza, non posso mangiare la pizza oggi, no, ma anche no. Hai visto, non te l'hai mangiato un Ferrarino che mi ha comprato? No. Esce bene, bello, poco camminare, 45 cavalli va. Farmaco un aino. No, 45 cavalli, non penso a fare la riserva, l'avevo fatto ieri, non lo so, Ferrarino sembra. Bello, bellissimo. Almeno sto seduto e fa tutto lui. Quando si riempie il cestello, mi fermo, lo svuoto e torno a partire. Quanto sei cavalli, Umberto? Oh, crack, si alzo, che dimmi, qua sgomma, lo vedi come sgomma. Sì, certo, sono sceso giù anche il cantiere a buttarci un po' di roba. L'ho messo dietro nel cestellino e sono comparato, cazzo di una forza, ma 45 cavalli c'è. Guardami la foto qua. Ehi, alza la mano. Va bene anche fare anche un po' di fuori strada, amico, 4x4. Allora, c'è la trattata davanti, anteriore e posteriore. Io faccio un passeggino qua, questi cavalli. Alla grande allora, lo proviamo anche il giorno. Ehi, perché fa l'automato che hai fatto tu nella parte dove sono le antenne, lì esce cresciuto tutto il fatto, con le c'è un bel po' di erba da tagliare. Certo, c'è fatto in macchina, non sa un po' più mettere il vento, se non mi rovinato tutto qua, adesso è tutto uniforme, però tutto in piano. E niente, buonasera, hanno finito i pozzetti, oggi gli ho dato la guaina liquida, come mi hanno detto loro, quindi adesso è tutto finito. Tutti per affrontare l'estate. Se vuoi entrare devi fare le, diciamo, i mattoni, il camminamento a distanza delle ruote, intanto di entrare la macchina, dai, se la vuoi tenere dentro, se no pazienza. Cristian, ci sei ancora? No, ci tieni dentro, fra, io sono la gamba di chi, è proprio da privata, già lo sai, sei venuto, è stato vicino al cancello, basta. No, mi godo tutto il prato, già metti il mattone a pulire la macchina, no, cioè il passaggio, hai visto, no? Il passaggio fatto in coso granito e basta, giusto per passare, però passare nell'erba per arrivare sino sotto la veranda. Certo, già non hai problemi di parcheggio lì. Che ci è rimasto? Il profeta c'è ancora? Poi quando ci rimettiamo bene, se avremo un'altra, adesso mi inizia il tempo buono, fra, iniziamo ad andare fuoco di nuovo. Fuoco alle polveri? Ma che? Hai visto che fai all'angolo in chiedermi, al barbecue. Vabbè, dai. Ehi, dai. Mi allontano per deliberare, vediamo un po' se già ne ho più rotto, vuole riprendere, se si sta preparando. Poi fra poco vado, ancora è presto, che adesso le 7:15, alle 7:30 comincio a scendere giù col cane, poi li preparo da mangiare e poi comincio a preparare il mio. Ah, io ora ce l'organizziamo una pizzata da Bruno, prima di tisana, ce l'organizziamo? E con chi? Noi, noi cla. Ma noi dobbiamo essere noi, nome e cognome, voglio io. Noi, Gianni se vuole venire, se vuole venire Natalino, Antonio Bombolo, adesso, Franco se vuole venire. Solo Bloffetta, noi. Quelli che ci sentiamo la sera, sì, no, perché se c'è altra gente, ma non mi interessa più. Le grandi comunelle, se è gente che conosco e che tratto, va bene, se no non me la tutti più, non da mai la comunella con i zingari. Se scende Stefano, quando conosce Stefano a Sassari, ho visto o fine, dobbiamo decidere. Sempre che si possa mangiare assieme, perché se a mangiare a tavoli separati. Non lo so, no, fra lunedì, così mi ha detto il comandante, se metto un arancione. Poi dipende dal sindaco già quale delibere fa, quale ordinanza fa, non lo so, stiamo entrando un bel, c'è il pronto soccorso pieno, ospedali pieni, anche a Cagliari, a Nuoro, lì stanno tutta la Sardegna infestata da questo cazzo di Omicron. Vaffanculo, ai cinesi che l'ha inventato il bull. Aspetta, no, forse l'ho cancellato, mi hanno mandato il video di come è iniziata questa pandemia. Bello, me l'ho fatto valere, sì, bello, ti dico. Vabbè, cosa vuoi ti dica? Prendiamola così come esce, no, il peggio. Vado a mettere, a affettare un po' di salsiccia e formaggio, a preparare un aperitivo, fra, ci sentiamo dopo. Ehi, a capa, a dopo, gra. Tu Luca, l'hai visto quel video? Capo di cena magari, no, fra, dopo lo metto. Praticamente c'erano questi due tutti bardati, no? Con le provette in mano, arriva il dottore e fa finta di toccargli i coglioni e quello perde l'equilibrio, molla tutto, ne parla tutto in terra e da lì è partito il virus. Ah. E ha fatto la finta di toccare il dottore, quello si è spaventato. Ha mollato tutto, ha contaminato tutto, sì. E da lì è iniziato tutto il virus. Sfaccaetta. Alla frutta siamo. Vabbè, avanti il doppio ru. E poi c'è questo qua, la molta gente è convinta perché ha avuto il coronavirus che è immune. Non è così. L'altro giorno un virologo ha detto che anche se tu hai avuto il coronavirus e ti è passato, se hai avuto già il virus e ti è passato, praticamente te lo puoi prendere ugualmente se c'è qualche duro che contagia, capito? Ci può ricadere, c'è la ricaduta. Sì, perché non ti dà immunità, non riesci ad immunizzarti tu. E quindi te la puoi prendere più volte, così dicono. Poi, a sta mia figlia è venuta da Bologna per farsi le ferie, poveraccio, ci ha fatto tutta la settimana a casa. Oh, io sono già, quant'è, da 28 in casa. Ma sai che non sta più arrivando, sono andato a prendere il pollame, mi ha detto il macellaio che non stava più forando il pollame perché sono tutti gli autisti malati. Sì, un sacco di settori sono a rischio, se tu guardi gli annunci stanno sempre cercando personale perché non ce la fanno più, molti sono in malattia. Ma un bel casino, Chi è in quarantena, ui. Si ferma il mondo, si ferma l'economia, avete visto su internet cosa ha fatto quel tipo in questa ditta di autotrasporti? Non gli hanno pagato lo stipendio, ha preso la ruspa e facendo tutte le gabine del camion con la ruspa. No, non l'ho visto. Dove l'hai visto? Il telegiornale? No, l'ho visto su internet. C'era il tipo che ha dell'altro per cercando di fermarlo e lui col braccio della ruspa c'erano tutti i camion in fila, infatti le schiacciava tutte le gabine. No, non l'ho visto. Lui, da lei c'è il conto, se no, te lo denuncia adesso. E ci tu di gabbo. Inga, come fa a pagarsi tutti quei capi? Ma ragazzi, era una vita di autotrasporti, con gli autotreni tutti quanti in fila, tutte le motrici in fila, e lui passava con la ruspa, abbassava il braccio, ciacchi, schiacciava la gabbia. Fai, quanto costano? 200-300 mila euro ogni camion, nuovo, vabbè. Ascolta, facciamo memoria, chi ci è rimasto? Io presente. Ecco, dove vedi? Sono giù in macchina. Eia, riprendi, perché poco fa ho rilanciato, non hai ripreso. Ciao Cristian, c'è un po' di gentaglia in giro. Avete parlato in due, come Cristian? Un po' di gentaglia indivisa in giro. Da dove? E di lasciare. Infatti l'altro giorno hanno messo l'articolo dei telelaser che sono postazioni, non dico fisse, ma questo periodo fanno controlli intensificati, le solite zone, dai, Woody, via Porto Torres, la via di Alghero, così vai per Danieta, a fare attenzione. Se c'ho il telefono, c'ho Coyote al telefono, uso Coyote. E ti avvisa? Tanto ci avvisa. Bene, bene. Ma con il laser non vengo io te che tengano. Il laser ti prende a 150 metri di distanza. Sì, è la gola. A quanto avvisarti ti ha già mitigato, come ha fatto a me sulla Budimudi. Esatto, a fine di... A me sulla Budimudi a 72 km orari mi hanno tolto 3 punti alla porta e 178 euro di multa. Mi ha cognato invece a Porto Torres, 80 km orari, gli hanno preso 3 punti alla patente e 250 di multa. Mi sa che sto parlando, io sto andando a 22 km orari. Vabbè, l'importante è che riprendo il baracchino, dai. Di quello poco va sicuro, dai. Comunque mi ha stato attenti, dai. Ci sto scherzando, però è così. Ma capo, non stavo andando a 140, era 20 km in più, che cosa vuoi che siano, capo? A 50 si fermo. Causa incidente addirittura, è un casino. Ho rallentato, ma mi avevano già beccato, quando li ho visto rallentato, mi avevano già beccato. Asco, se superi i 40 ti ritirano direttamente la patente, se superi i 40 km in più. In Sardegna più di 90 non possiamo andare, perché noi autostrade non ne abbiamo. Guardate un po' voi, se ci tenete la patente. Basta via la 72 km. Guarda, 72 km orari. Ma adesso sicuro sei? Sicuro so. Ma perché è successo un ritardo un giorno? Non era a 62 km orari, era a 200 km orari. Quello è il morto che hanno pizzicato sulla Budimudi, l'hai visto? Non è mirato battetti. Ma è successo un giorno? Se c'è un ritardo lì, tra 9 minuti. Tu ce la fai? Cosa qui? Io ho fatto un giorno Sassari Oristano in 39 minuti. Sassari Oristano? Esatto, in 39 minuti. Maga. Io l'ho fatto, fidati. Io qualche anno fa però mi... Qualche anno fa, ma adesso mi sono dato una calmata. Ma cosa c'era? Non ha parlato. Che mi hanno chiamato dalla clinica, non c'era mio padre. Che si era aggravato e ho tirato un appunto, mi mette multijet a 200 tachimetro. Sì, no, ripeto, prima lo facevo anch'io, qualche bella tiratina l'ho fatta, però erano altri tempi, dai. Allora, adesso sto calmo calmo, rilassato a 70, 80, guida rilassata oggi. Oh, vabbè, quando a volte ho fretta anch'io, a volte me la rischio, a volte sei in ritardo, cosa fai? Un po' schiacci, però bisogna stare con le antenne dritte. Ah no, proprio adesso lì, che la patente te la prendo di 3x2. E poi vai dall'esame d'ora, mamma mia, secondo me non ce la farò più a prendermi la patente se me la tolgo. A tutti quanti quelli sulla quarantenni siamo fritti, Oh, io non mi ricordo più nulla, cioè non ho più memoria, capito? Per memorizzare tutte quelle domande. Ui, per me mi crepani. È difficilota sta patente, non è semplice. Più facile è acquisto, vai a intuito. Dove ci puoi arrivare? Ma oggi è un casino, ci sono 3-4 risposte, possono essere due giuste, tutte sbagliate, un casino, È molto più difficile adesso prendere la patente, se mi inibiliano la mia che va giù da di pubblica. Me lo dici, la pubblica, ma... lasciamo perdere. Ehi, quella lì, ho. Via, stai attento, ripeto. È un macello questa volta, Gioca troppo, io quando è? L'anno scorso, ce n'è da Olbia, 150, la Porto Fiesta. L'avete sentito che adesso vogliono mettere la scatola nera? Perché per l'assicurazione? No, non è delle vetture, per legge metterà una scatola nera il prossimo anno. E per chi corre? Adesso non so se sono nelle nuove o se qui si devono adeguare tutte le macchine. Ma io ce l'avevo l'assicurazione io infatti. Riprendi. E perché non sapeva come spillati su di tissù, adesso si ce li stanno mangiando così, con i tamponi, medicine, ma tenere più aria. Adesso li stanno vendendo a Sidernet, mi sembra, i tamponi a buon prezzo. E anche un bel tipo di cinesi. Ma insomma, mi fiderei più di Sidernet, dai. Ah ragazzi, ci dai tu un sciabucco, per carità. Un giorno si è bruciata la candeletta della stufa a pelle, sono andati lì a comprarla. E cos'è durata? Ma 10 giorni mi pare, è troppo in garanzia. 70 euro mi pare. Bastardo, non te l'ha cambiata? È troppo in garanzia. Ma che tu fai? Non mi ricordo il nome. C'è la mia compagna, ma tu non le compra più. Ma se no me la stava accendendo, col fucchino. Perché non ci l'accendo ogni tanto la stufa? Cosa? Perché non ci la stufa ogni tanto l'accendo? Vabbè dai, io vi lascio, vi saluto tutti cordialmente e vado via, dai. Ci sentiamo ragazzi, buon fine settimana, ci sentiamo. Ciao Gianni, alle prossime. Ciao Gianni, alle prossime. Luca. Ciao già, buon divertimento, buona pizza, dai. Io quando mi riprendo, poi ovviamente, tempo permettendo, se ce lo permettono di uscire, poi se non si può più di due vado io, c'è la mia compagna a mangiarci la pizza da qualche parte. Io aspetterei un po' che si cambino un po' le acque. Se no a casa la portare in gas, se non mi no, quello sì. No, anche lì c'è il rischio, perché chi te la porta sarà tranquillo, che se ti tocca il cartone, il pizzaiolo, cosa ne so più. Via. Un'altra opzione. Come, Cristian? Sì, ho un'altra opzione. Apro il freezer di casa mia, 10 kg di zemino, me lo faccio arrosto. C'hai lo zemino in freezer, c'hai? Cappa. Hai capito? No, però, zemino non ne ho la verità, però qualche altra cosa ce l'abbiamo, qualche petto di cinghiale. Io ho di tutto a casa. Però lo zemino preferisco molto arrosto. Lo so, no, è che non l'abbiamo mai congelato, In genere quello che abbiamo ce lo mangiamo tutto, dai, difficilmente ne avanza. A me me l'hanno regalato, l'ho messo in freezer e poi l'ho dimenticato dov'era anche. E beh, ma non perde quando poi vai a cucinarlo? No, non può niente quasi. Non lo so, ripeto, non mi è mai capitato. Lo fresco è molto meglio, corta all'istante, è più buono. E l'importante è che quando lo scongeli lo asciughi bene, che non ci sia acqua dentro qui, quando prima di cucinarlo lo asciughi bene, insomma diventa amaro, capito? Guarda, allora io ho 45 anni, adesso ho 10 anni che arrostisco a 1000. ogni 3x2 a casa. E quindi già non ce l'hai bruciato negli occhi, dai. Appunto, i bracei me li faccio a casa io. Anche noi abbiamo un bel barbecue in campagna, sarà un paio, non dico 2 metri di larghezza, ma quasi. Il mio è 40x80, però prima di sciogliere quello lì devi fare i fuochi dentro. No, questo è muratura, è tutto il mattone dei frattati. Sulla sinistra c'è la parte con una griglia alta, un palmo da terra sospesa, dove lì faccio il fuoco e poi in terra cade la brace e la sposto direttamente sulla destra, dove c'è la griglia già regolabile in altezza con un po' in pendenza e con raccoglitore anche di grasso, con la grondaia che mi butta il grasso verso dentro una ciotola. Deve essere così infatti, questa volta è regolata. No, questo è fatto praticamente, il modello l'abbiamo visto in Argentina e l'abbiamo un po' perfezionato e basta, però il modello è tipo come lo fanno in Argentina. Fatto così, riprendi Luca. Luca. Sì, sono qua. Volevo provare a invitare qualcuno di voi, però non lo... Ascolta, il vostro ragazzino c'ha 20... Vabbè, sono anche bravo con la fisarmonica, è un mostro. E chi è? Antonio Tanti. Io non credo che è bravo, non bravo di più. Cazzo, un mostro ragazzo, eh. Avrà 25 anni, 24, 22, non so quanti anni ha. Bravo, veramente bravo. E è in diretta, c'è su Facebook. Lo conosco da piccolino, da bambino lo conosco. No, non so se ce li ha 20 anni, forse c'ha 20 anni, se ce li ha pure. E chi lui? Antonio Tanca, bravo, un ragazzo, come si dice, educato, veramente in gamba, sì. Ma quello che suona? Io sono la fisarmonica, che sono bravo lì due. È un due che bravo, sì. È bravissimo, sì. Le ha trasmesso la passione il nonno della fisarmonica. L'inverno scorso stava suonando in Corsica, perché qua non si poteva fare niente, e allora andava in Corsica a lavorare. No, cos'è il nonno? Peppino di Capri gliela trasmessa, che cantava la fisarmonica. Anche, no, il nonno. Un bravo ragazzo, fa serate dappertutto, cioè d'estate, adesso vabbè abbiamo problemi del Covid, ma in estate non aveva un giorno libero, proprio lo chiamano dappertutto. Vediamo, c'è molto bravo, cazzo fra. È uscita l'aria, ha portato, è passato al bar, ha portato un cagnolare per stanotte, ma ti dico, se vedi il caso, te l'abbiamo copiato. Un cagnolare? Vabbè, no, possiamo, allora buscavo lo stesso, vino buono. Sì, ecco, non viene più, già ce lo vediamo fino a un blocco. Ma non sono quelli i problemi, grazie a Dio. Ah, io non sono come Vittore, duro. Guarda, sai che mi piace, perché Carmis, non lì è buono, vedi? Non mi fa mal di testa. Lo paghi, però beve un vino come si deve. Allora, Cagnolari ci aveva portato Carletto Rosso a Capodanno, a Natale. Ah, era buono. Carmis è bianco però. No, con Franco già ce l'abbiamo scoppiata. No, Carmis già lo bevo io, lo porto l'aria spesso. Ehi, questo è 2 bottiglie di Cagnolari, perché c'ho carne stanotte, capito? Sì, lo so che è bianco, Fra, no, ma dico, il Cagnolari, l'ha portato mio fratello a Natale. Poi c'erano i Grimaldi, a me no, ero già imbenzinato da prima io, non l'ho giuvito. No, Carmis già lo bevo, però abbiamo bevuto il bianco con pesce, capito? Però stanotte c'è carne, quindi ci vuole il rosso. Io preferisco sempre il rosso. Vabbè, Carmis è un buon vino, sicuramente non ti fa bruciore come altri vini bianchi, mi fanno un po' di acidità. Là. I vini buoni difficilmente ti fanno male. Comunque me ne è spesso Marcello con Giampaolo da Mirko. Adesso Mirko è chiuso per via del Covid, adesso deve sanificare tutto. Chissà se riparte, ma mi sa che se eri tu di Claudio, se andiamo in zona arancione, siamo fottiti. No, il circo li chiudono in zona arancione. L'altro giorno erano assieme, mi pare, il gatto alla volpe. Giampaolo con chi era? Quello che hai detto tu, come si chiama? Mi sfugge. Marcello. E ecco la collega tua. Sì, sono tutti e due colleghi miei. Sì, io vado spesso, la voglia. E c'era pure lui il giorno con noi. Per sicurezza si è fatto il tampone, è negativo. No, sono in gamba tutti e due, la verità. Sì, no, come si comportano bene in gamba, veramente in gamba, ma ce l'ho lo stesso, no? Giampaolo poi c'è un problema, che lui dice il vizio, sai, lui è anche Marancello. Marancello, lui dice Marancello. Marancello. Ehi, Marancello, e vabbè, comunque ci siamo capiti. Quando ho problemi, qualsiasi problema chiamo a lui e poi già mi dà delle dritte. Ti fai mettere le manette, dai. Ehi, anche, poi ci portare una pistola. No, non ne hanno manette in bari, non credo perlomeno. Allora, chi siamo rimasti? Dai, io rimango in ascolto che vado al cancello a prendere questi amici da qua. Sì, a capo, dai, buona serata, buon tutto. Cristian, ci sei? Sì, sono ancora qua, ero al telefono con quei amici. Ah, quindi sei a tutte le ruote tu? Sì, lascia perdere, guarda, sono stanchissimo. Questa è bella, oh Luca, a tutte le ruote. Allora, sì. La compagnia Marancellare, vediamo che cazzo sono questi qua, polizia, quella polizia giudiziaria, polizia amministrativa, polizia stradale, pubblica sicurezza, no, oh. Già vabbè, no, io non sono un vittore, no, guarda, sì, già mi metto già con gli amici, però non sono quelli proprio fissati ogni santo giorno, io no. No, neanche io sono così, neanche io adesso questi giorni, vabbè, stavo prendendo l'antibiotico, un po' di acqua vite ho bevuto, acqua vite con un po' di miele, me la scaldavo un po' col microonde, me la bevevo proprio bollente, proprio per la gola, e mi dava sollievo, se no non cerco niente quando sono solo. Anche io non so solo bevo, con me compagnia però, da solo non tocco nessun alcolico. Tu pensa che io per Natale ho preso per Capodanno la Baileys, la crema di whisky, buona. Vabbè, no, ce la bevo più magari quando sono fuori, che magari adesso ho mangiato la pizza prima, me lo prendo come digestivo, però a casa non te ne viene la voglia proprio. No, io bevo con mio suocero, o da mio padre in campagna, un bicchiere di vino, così uno o due a cena o a pranzo. A volte quando ordiniamo la pizza, a volte qualche birra, ce la apriamo in casa. Però, ripeto, no, non sono anch'io un bevitore. Guarda, io a casa il prosecco pieno di arancino, limoncino, mirto, mandarinetto, di tutto di più e non bevo niente. Allora Fra, una volta siamo andati a mangiare la pizza che da poco, la settimana scorsa mi pare, siamo andati da Bruno lì in piazza Colonna Mariana, non so come diciamo, vabbè, siamo venuti tre bottiglie di birra e quattro. Ma non dico nulla, ma quasi, dai. Ma per carità, poi siamo andati in un circolo, c'era poca gente, ci siamo bevuti altre 3-4. Ma c'è gente invece quando beve, io non so come fa a buttarla dentro per tutta questa roba, boh. Io se dovessi bermi, ma non la metà, ma un terzo di quello che bevono loro, già all'inizio mi viene subito da vomitare. No, io poi ho tipo un sensore, cazzo, mi viene mal di testa, boh, mi fermo, non tocco più niente, basta, mi ritiro. Perché poi dico, no, arrivo a casa e mi devo coricare e non dormo, sto male, allora preferisco non bere, capito? Adesso faccio così. Poi c'è quello che beve, non gli fa nulla, si inciccia, più beve, no, io non ci riesco. Bravo Luca. No, proprio non hanno un fondo, boh. Chi è entrato? Avanti. Guarda, io non bevo niente, grazie a Dio. Bevo solo, tranne con qualche amico al bar, ma niente di che. Sì, ma così come tutti, dai, no, normalmente una birra te la bevi, due birre, ma no a farne un fumo, dai. E a casa un pozzetto pieno lì, arancino fatto da me, mirto fatto da me, mandarinetto fatto da me, limoncino fatto da me, e giallo in cui, c'è solo che, non solo, non bevo, non mi faccio entrare da solo. No, ma anch'io sono così, ci vuole la compagnia giusta. Avanti Luca. Ehi, aspetta un attimo, vorrei ascoltare un messaggio della mia compagna, Tra come amici seri che ridono, scherzano, cazzo divertirci per bere, se no è inutile bere. Sì, sabato e domenica quando siamo con gli amici, lo stesso. Però ripeto, sempre nei limiti, Per quanto io non bevo tanto, io chiamo subito. Ah, no, io ho detto, grazie a Dio, insomma, non sono un ragazzo, quindi sono sempre rientrato con le mie gambe. Ne ho accompagnato qualcuno, anzi parecchi a casa, ma a me non mi ha mai accompagnato nessuno. Allora, a vedersi, chi abita in campagna è una zona abbastanza bruttina come cioè, io ho visto un giorno quattro viottoli in uno, vedi tu in che condizioni ero? Hai visto quattro viottoli? In uno? Spero che abbia scelto quello giusto. Sì, io ho fatto anche solo le altre persone, figurati. No, vedi, lì bisogna avere anche la lucidità, tra virgolette, di dare le chiavi a un'altra persona, a te, guida tu. Io quando so, anche se non sono ubriaco, però so che ho bevuto un po', ecco mia moglie, te, guida tu che è meglio. Ma guarda, l'altra volta sono andato al bar da un amico, sono con amici, di Sant'Ugliere, e un Campari, e va bene, un Campari dopo l'altro. Sono venuti sei campari a testa, cioè avevo una mica, ascolti, guidi lì per chi non sa guidare. E poi Campari è maledetto. Ascolti, la fate finta che sì, allora guidi lì perché io sono consapevole di guidare, che è meglio. Bisogna riconoscere i propri limiti. C'è quello che se ne accorge, c'è quello invece che diventa anche prepotente, non vuole che gli prendi la macchina, ma vuoi guidare lui. Io i limiti li conosco per un motivo, perché con un amico a Siena sono svoltato una pomocina da qua vita da 2 litri in 2 a 60 gradi. Peggio ancora, non è vero, è un super alcolico, ancora peggio. Però farò bello il fegato già. Ma sono tornato a casa, non sono con il cazzo, che non è mi alto, c'è anche mal di testa, normale, tranquillo, rilassato, figurati. No, ripeto, io non sono mai arrivato a quei livelli, sì, un po' allegro, così mi viene da ridere, ma si fa tutto lì. E poi mi fatto quello lì, poi adesso bevo pochissimo adesso, quasi niente. Meglio, no, poi non è periodo, se ci teniamo la patente. Qua ci tengo, la patente ci tengo, come respiro. Sì, Luca è ancora con la fidanzata. Sei sempre lì al terzo pettine? Sono andato a lui con la fidanzata. Ti ho chiesto, sei sempre lì a Pratamona? No, adesso sono a Latte Dolce. Ah, hai cambiato zona, sì. Oh, segnale sempre basso, cioè io sono proprio coperto quella zona lì, blu. No, guarda, ho cambiato antenna, perché la LEM sta funzionando male, stavo sulla frusta nera oggi. Guarda che stai innescando un po', controlla che le stazionarie. L'antenna allora. Adesso c'è movimento, perché il segnale è oscillante. Sì, mi sto muovendo adesso. Adesso sta facendo bene, poco fa stavi tendendo a innescare. L'antenna che ha dato problemi, vabbè, lasciamo perdere. E occhio, non rischiare i finali, dai. L'antenna, senza l'antenna no, è un rischio per il baracchino, senza un buon più impianto d'antenna. Sono passati i brividi. Adesso ti stai salendo anche di segnale adesso, Faccio gli ibridi e faccio prima, è un rischio. Io intanto infatti butto la mano dietro per toccare i finali. Ma il mio già è abbastanza fresco, dai. Che apparecchio è? Un Alan 78 Plus. Alan 75? 78 Plus. Ah, 78. No, già va bene. Un bel microfono dovete metterti, un bel microfono amplificato magari. Un prox con, va bene così con l'eco. No, adesso va bene, hai aumentato il segnale, adesso vai molto meglio. No, c'è un prox con l'eco anche tu già. Adesso sei 9.20 hai passato anche. Sì, ma così alto sono. Dove sei? Sono dove c'è il piscino Latte Dolce. Anch'io ti arrivo forte, sicuramente, se mi arrivi tu forte ti arriverò forte anch'io. Ma adesso cioè, si è passato da un segnale di 2 a 9.20. C'è che viene da te solo per venire dalla tua. Sicuramente c'è qualche varco, tra un palato e l'altro mi sta arrivando fortissimo. È probabile. Speriamo se Luca è libero. Oh, c'è più nessuno. Luca ormai è occupato. dove vado a Pasquale adesso? E allora ti avvicini a me. Io, alla grande. Io sono qui al Sacro Cuore, dai. Un po' più giù del Sacro Cuore. Pasquale, sei nel mio rione di nascita. Io sono più... la parte più bassa ancora, eh. Tu sei nel mio rione di nascita, Sacro Cuore. Sono nato lì. No, io no, io sono nato a Villa Gorizia, qui sono accudito. Adesso, attimo, Sacro Cuore, adesso avete campagna, tu non puoi butti. Vedi, invece sono, ti sei avvicinato a dove sono nato io, il contrario praticamente abbiamo fatto. La campagna è unica, è stupenda. Sì, anche a me piace, però ho accontentato la signora, mi piaceva più la città. Vabbè, io mi chiedo con i miei cosa fosse maggiore. Anche a me piace la campagna, che io rifacevo tutto, tiravi la macchina, te la controlli, te la pulisci, fai lavoretti, insomma, c'è più, il cervello è più stimolato in campagna. E vabbè, importate che stai bene, poi, anche mio figlio in casa, hai visto che sta meglio di me. Purtroppo la vita, quando c'è un padre di soldi, non mai dire, che si fa sulla casa loro. Lo so. Anche noi abbiamo genitori anziani, i miei hanno 90 anni, 180 anni in due, poi anche i miei suoceri, infatti adesso mia moglie è scesa da andare a mangiare al mio suocero. È rientrata la signora, dai, ti saluto e ci sentiamo alle prossime, un abbraccio, salutami a Luca quando rientra. Sono qua, dai, anch'io adesso do la mangiare al cane, se c'è qualcuno dopo bene, se no pazienza. Dai capo, dai, adesso mi informo delle notizie a vedere come stanno i vecchietti, dai. Ciao a tutti. Ciao Fra, ciao, buona cena e buon chiuso, alla prossima, ciao. Ciao, alla prossima, dai. Dove sei qui? Sono la Pasquale. Cosa fare? Più basso, adesso sei più forte. Va bene, ma c'hai la base magnetica. Va bene. Tutti mantengono la festa nera. Va bene. Basta, ma cosa vuoi? Ci vai con Cristian, vai, porta in macchina, vai, fai la baracchino, che va. Se vai girando le palle, c'è un gas. Ascolta, io sono andato a casa, che poi ci vuoi toccare. Cosa, Cri? Io sono andato a casa, che poi ci vuoi toccare. Ma lì c'è vuoi fa, ma di vuoi andare? Se tu parli a me non ci sale. Se parli a me, ci sono solo io e voi. Ma che riduccia. Che va per così tipo, che va in giro così qui. Fai bene. Già fai bene. Oh, già fai carità. Adesso siamo vicino un attimino con la spagna stanotte. Se no, pazienza. Così devo mangiare anche una bestia. A muscolo. Io intanto sono 31, tuo fratello. Mi metto WhatsApp. Casino. Ah, sono tutti francesi. Andiamo qua, andiamo. E anche. Ma che sta? Io vorrei più pronta, che usciamo a fare la cantata, cazzo. Ma puttana se la metti cantata. Mentre sta stare bene, poi chi se ne frega. Mangiare, bere, facciamo cantare gli altri. Quello è poco, ma sicuro. Quello è poker, ma sicuro. Chiave. Mi serve di... Occhio. Mi stanno un po' di quella bombolina. Meno me, è per bombolino. E ciao, Lu. C'è anche Cristian, sono un attimino da tu. Dai, devo subito da mangiare la tea. E io intanto mi preparo. Il bombolino, Antonio. Ehi, Antonio, dimmi. Ehi, Antonio, dove è pigliato? Ah, Cristian, sì. Antonio. Già, due nomi, ma a cosa chiamo Antonello però? Gappa, no, io adesso mi sto preparando, devo fare una cosa stanotte, capito? Piazzarola. Che devi fare stanotte, l'amore? No, devo uscire. In giro, ma devo uscire, che ce la fa fare, c'è freddo. No, già, ma non posso. Devo andare in un posto. Vai, va tranquillo. Dove sto scendo, Bomboli? A Forte Chiaro, sì, dove sei? Mamma mia, Sacro Cuore, dove c'è la battaglia? No, adesso è forte, c'è. Se non fa 30 radio 5. Questo me la frutta vera, anche l'altra, mi si è dato lo spinato dall'antenna di dietro. No. Ho fatto la controfatta, no, non c'è la scatto, non c'è frutta vera. Cappa, no, già va bene. Poi sono anche la bambina sempre adesso. Ho capito. C'è una macchina da sbirro. Scappa. Va bene, là, io mi devo lasciare, mi devo perché mi sto preparando, ok? Non lo fare, dai. Non ci lasciare tutti. Tutti così. Vabbè. Ci mandavi male. Vabbè. Tutto su. Manda a peggio quelle bussi. Sta con le giro, sì. Esatto, con le giro, sì. Mi altro devi fare, beccare. Ma la mia macchina, mi sei rotto tu con il freno. Cazzo, e se ti hanno con i freni rotti? No, non è un'altra macchina, non è questa. Sì, tu hai risparmiato Antonio. Perché una è mio padre. Questa voce c'è dove sta andando? Dov'è? È una amica. Ah, ma che è con te? È un'amica che ho guardato. Ah, ma no, se tu questa voce di donna, poi non capivo se era che male stava chiamando qualcuno, boh. Poi c'è in macchina con te. No, no, io non sono fidanzata, è una fidanzata. Ma io sono fidanzata invece. Bravo, bravo. Mi faccio una cosa, che una... Una è troppa e due sono tante. Sì, sicuramente una è troppa e due sono tante. Vabbè, io ho problemi. Diamo le belle ragazze, tutto il resto, mi diverto. Esatto, le mie sono tutte brutte. Sì, adatte, vabbè. Poi sei giovincello qui, rivediti. Quanti anni hai tu qui? E bambina c'hai, no? 45 ne ho, quasi 46 quasi. E io ne ho fatto 47. Sono andato nei 48. Sì, vecchio. Di più. Sono un comunisti, sì, ma... vabbè, dove fa? Questa è la vita, purtroppo. Tanto, ricordate una cosa, che morimmo tutti prima o poi, mi. Non è che tu campi, là sei muore, tutti morimmo. Beh, con poco ma sicuro. Vabbè, oggi ho mandato un messaggio a tuo cugino. Scendi più, cazzarola. Già, per Paolo, per Franco, come ti diciamo? Faccio la pulita alla mamma. L'altra volta gli ho messo la luce nelle scale, c'è casa sua, là. Sua. Quando la vuole accendere, la accende e se non la spegne. Perché usavano sempre la luce nelle scale e non andava bene. Poi gli avevo messo a posto delle prese in cucina, adesso ho un problema nella lampadina di cucina. Però io purtroppo non ci posso andare perché sono col Covid. Tutti i messaggi, infatti mi è arrivata la chiamata, poi non capivo lì per lì, nome e cognome, ma io ho detto tra me e me, non c'ho il numero suo, invece mi ha chiamato tramite, come si chiama, tramite Messenger. Ma sì, io non c'ho su Messenger, su Facebook, su WhatsApp, non ho proprio questo numero di telefono. Vabbè, io ho il numero della mamma, c'è questo mi chiama la mamma. E proprio che i numeri lo cancellati dalla rubrica, non voglio più avere. Vabbè, qui, quelli sono proprio i due. Ah, guarda che sono quelle carte fatte da... con la schiaccia sassi. Vabbè, come si comportano bene? Diciamo che... quando sto facendo dei lavori, lui sta troppo a mezzo ai piedi, dimmi, quello sì. Intanto il lavoro che mi hanno chiesto ce l'ho fatto, non è problema. Dove sono interruttore, tutto quanto, c'è mi spingi dentro a casa, fanno la padina fuori, e non è il problema, no, cioè non lo fa, gliel'ho fatto. Solo che quando gli fa il prezzo, magari un po' sta, non è troppo. Io lo so, prezzi e quinti. E ma si c'è così, parenti serpenti. E vabbè, io vuoi qua. Guarda, le amici dei scesi, i parenti no. Ehi, ma trovo che gli amici non è che siano meglio, dipende. Non tutti, ma dipende. Guarda, amici che li puoi scegliere. La parete è difficile, dai, io faccio quelle di sì che sono quasi arrivato a casa, dai, niente di che, dai. Ehi, ciao qui. Ciao, ciao, domani, vai. Ciao, ciao.